La versione di Oscar, Giannino. Buon pomeriggio, buon inizio settimana in questo lunedì 29 di settembre, quindi diretta Radio 24. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia. L'indirizzo è la versione di Oscar, @radio24.it, e vado subito alla domanda del giorno per raccogliere le vostre opinioni, con gli sms al 3419-238-6666 oppure telefonandoci all'800-24-0024. La domanda è secca perché il tema oggi è praticamente obbligato, visto che più tardi, nel tardo pomeriggio, si tiene una infuocata, a quanto pare, direzione del PD, dove l'argomento è la riforma del lavoro. E della riforma del lavoro io dico purtroppo, ma magari mi sbaglio, l'argomento che ha diviso, spaccato il PD, i sindacati, e ha infiammato tutto il dibattito pubblico e i giornali è stato l'articolo 18, se modificarlo o meno. Quindi la domanda che vi faccio è: ma per voi è davvero così fondamentale questa modifica dell'articolo 18 per sperare che di lì venga un aumento della domanda di lavoro, con 3,5 milioni di disoccupati e tantissimi altri che si sono allontanati dalla speranza di cercare lavoro e quindi sono fuori dalle statistiche della ricerca del lavoro, non sono attivi, e con una cifra spaventosa di giovani che non studiano e non lavorano? Allora, e questa norma qua, quella che modificata la legge Fornero, fa ancora coesistere per i licenziamenti di tipo economico, non per i discriminatori? Per i discriminatori è ovvio che resta il reintegro giudiziale, ma per quelli di tipo economico, siccome fa convivere ancora al reintegro giudiziale il principio del risarcimento, è così fondamentale modificare questa norma? Ecco, questa è la domanda che vi faccio. E però cerchiamo di capire oggi, da un addetto ai lavori, cioè da chi di mestiere studia il diritto del lavoro italiano e in termini comparati quello degli altri paesi, per capire che cosa si è capito fino a questo momento in realtà della riforma, perché noi stiamo parlando di una legge delega che scrive alcuni principi di ordine generale e poi demanda la soluzione concreta alle nuove norme a decreti delegati che vengono l'anno prossimo. Io trovo un po' singolare che, poiché la delega, ripeto, è in termini di principi generali, ci si spacchi in maniere per me abbastanza incomprensibili, nel senso che in questa settimana in cui era negli Stati Uniti, per esempio, diversi esponenti dell'opposizione interna PD, che è molto forte, che in Senato ha circa 40 senatori, che non si ritrovano nella volontà di Renzi di modificare la disciplina dell'articolo 18, sono arrivati a dire: no, ma noi potremmo però trattare, accettare l'idea che con il contratto triennale di inserimento a tutte le crescenti per 3 anni, no, 5 anni, no, 6 anni, c'è chi ha parlato di 6 anni, si fa la sospensione del reintegro giudiziale, poi però vale l'articolo 18, che vale per tutti quelli a tempo indeterminato sopra i 15 dipendenti, per tutti. Allora, mi sembrano trattative, in assenza di un testo, almeno io non lo conosco, non l'ho visto preciso, un po' singolare. Però, detto tutto questo, la domanda centrale è se non stiamo prendendo un po' tutti un abbaglio, perché io capisco il problema politico, perché come si è visto Renzi è riuscito nell'intenzione di mettere nell'angolo una parte del suo partito e poi il sindacato, la CGIL, trattino, e finisco l'introduzione, c'è stato un incontro tra le tre segreterie confederali CGIL, CISL e UIL stamattina per vedere che posizione assumere se congiuntamente andare a una manifestazione. La posizione non è comune e per il momento la manifestazione contro l'eventuale modifica dell'articolo 18 resta della sola CGIL della FIOM per il 25 di ottobre. Ripeto, Renzi è riuscito a far vedere politicamente il problema, cioè un pezzo importante del suo partito e del sindacato che dicono no, però io ancora non ho capito. E allora chiediamo al nostro ospite, Emanuele Massagli, che è il presidente di ADAPT. Cosa vuol dire questa sigla? ADAPT è l'Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni Industriali. Questa associazione, a me, per il mestiere che faccio come giornalista, mi è molto utile sempre per capire i testi di cui si parla e per i rimandi alle discipline internazionali comparate, per capire davvero come funziona ogni istituto del mondo del lavoro nei diversi ordinamenti. È l'associazione che ha una delle sue figure più di spicco intorno al professor Michele Tirabosco, un allievo di Biagi, e a me quel tipo di pensiero piace molto. Ma comunque ringraziamo Emanuele Massaglia per essere con noi oggi pomeriggio, grazie. Grazie a lei, buonasera. Allora, posso farle innanzitutto una domanda? Lei al momento dei test di cui si parla, con precisione, ai nostri ascoltatori, che cosa di preciso ha capito, di quali modifiche stiamo parlando per il tema, diciamo così, che di rimente dell'articolo 18? Allora, attualmente il testo che è noto quantomeno agli addetti ai lavori è il testo del disegno di legge delega proposto dal governo e poi modificato in commissione lavoro del Senato, che va in discussione al Senato nei prossimi giorni. In questo testo, che è composto da 6 articoli, dell'articolo 18 se ne parla, o meglio non se ne parla perché non è citato esplicitamente, in una riga dell'articolo 4, la lettera B, dove semplicemente si dice, così è ad oggi il testo, che si prevederanno per le nuove assunzioni, si prevederà per le nuove assunzioni un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio. Questo è il testo, quindi è il principio di delega. E questo è un testo che, come lei giustamente ha detto, apre non pochi interrogativi, perché è noto, sono noti i suoi effetti più che altro perché si sono lette le interviste del Premier e si conoscono le intenzioni di due tra i principali scrittori di questo dell'emendamento che ha modificato il testo, che sono i senatori Ichino e Sacconi. Però effettivamente il testo non dice nulla di esplicito sull'articolo 18, tanto è vero che parte della dottrina già dice che il principio un po' debole potrebbe poi essere contestato dalla Corte Costituzionale. Allora, quindi parliamo delle interviste, visto che bisogna ragionare su un testo che non è preciso, non fa capire molto di più, anzi di quello che ha detto lei non fa capire nient'altro. E poi comunque un testo che andrà prima, passerà al Senato, probabilmente così o con modifiche, poi andrà alla Camera, sarà ridiscusso, tornerà al Senato, per cui fino a dicembre certamente non si avrà. Non c'è un testo. Quello, quindi, sono tutti dibattiti de iure condendo, a maggior ragione non capisco il PD che si spappola e il sindacato che pronuncia un sciopero, ma questa è opinione mia. Nelle interviste il Presidente del Consiglio in questa settimana in America ha più volte detto in maniera abbastanza recisa di offrire uno scambio, cioè dice che lui ha parlato del reintegro in quanto tale, senza fare distinzioni. Da una parte deve cadere perché è un apartheid, riguarda una minoranza di lavoratori italiani, il che è numericamente vero. Dall'altra parte però, nell'intervento, nella riforma, lui dice: io faccio piazza pulita di un bel po' di troppi contratti a tempo determinato. Quindi un trade-off, perché quelli sono i precari, non può valere un diritto che non vale per la maggioranza dei lavoratori, come l'articolo 18 per i 15, sopra i 15 dipendenti nel settore privato, perché poi nel settore pubblico non vale, ma invece, pur intervenendo da una parte così, dall'altra parte faccio un bel repulisti di contratti a tempo determinato. La domanda che le faccio io è: ammesso e non concesso di aver capito quali sono questi contratti, si dice il lavoro in somministrazione e i Cocopro, la domanda di lavoro delle imprese a costi elevati, tasse elevate, margini tendenti allo zero se non negativi in molti settori, si avvantaggia oggi di un intervento che fa il ripulisti di questo tipo di contratti? Secondo lei sì o no e perché? Da un punto di vista di lettura del dato economico, delle statistiche del lavoro, direi di no, perché comunque anche un nuovo contratto a tempo indeterminato è un contratto a tempo indeterminato con tutta la pressione fiscale che è nota e con altre rigidità, oltre all'articolo 18, anch'esse piuttosto note. Per cui da questo punto di vista devo dire che non è propriamente questa la domanda principale che viene dalle imprese e dagli imprenditori. C'è però un altro aspetto che si potrebbe valutare, che è quello delle aspettative, che è un pochino quello che lo stesso Primo Ministro ha citato qualche volta, cioè il superamento dell'articolo 18 di fatto può diventare un simbolo, può diventare il segnale della rottura di un certo diritto del lavoro, il segnale della rottura di un certo tipo di rigidità, e quindi in questo senso potrebbe generare qualche aspettativa positiva di cambiamento e quindi incentivare un poco la propensione ad assumere di chi può assumere. Certo, resta il problema che in questo momento in pochi possono assumere perché non ne hanno le risorse o non ne hanno il giro economico. Allora, io intanto leggo un po' di sms che ci arrivano da ascoltatori. Uno dice: sono un imprenditore con 130 dipendenti, articolo 18 per me non è la priorità, serve al massimo per la pubblica amministrazione dove non si applica alcun tipo di possibilità di licenziamento, al di là del fatto che c'è nelle norme, correttamente lui lo ricorda che c'è nelle norme la mobilità anche per la pubblica amministrazione che poi non si esercita, trovare risorse rendendo tutto più efficiente e tagliando più le tasse, questo è soprattutto, secondo il nostro ascoltatore imprenditore con 130 dipendenti, la prima aspettativa. Devo dire che quasi tutti i messaggi sono su questa linea. Un altro dice per esempio: articolo 18 sì o no, l'importante è che si faccia però qualcosa molto in fretta, che dia un segnale energico e la smettano quindi tutti di essere contrari. Questo riguarda le aspettative, quindi un altro tema che toccava Massagli adesso. Le faccio un'altra domanda: la coerenza tra questo tipo di interventi annunciati rispetto all'apprendistato, perché si dice spesso noi abbiamo bisogno di una riforma del lavoro che sia associata però a una profonda riforma della scuola, fin dalla scuola secondaria e poi a livello universitario e anche post universitario, affiancando formazione nelle imprese e quindi intervento diretto nelle imprese, nella formazione dei curricula formativi, con i tipi di profili scolastici, i programmi scolastici. Ma questo non dovrebbe essere l'idea che in realtà il contratto di inserimento standard dovrebbe essere proprio l'apprendistato professionalizzante? Perché trascurare questa cosa e scegliere invece il contratto a tutela crescente, che da quello che capisco io non è affatto un apprendistato professionalizzante? Allora, le ho fatto questa domanda e però la risposta me la dà tra 60 secondi dopo le informazioni sulle strade. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16.48, stiamo parlando della riforma del lavoro, l'articolo 18, vedremo la direzione del PD con Renzi, più tardi che dice al suo partito qui si vota e dovete allinearvi alla maggioranza, però poi i parlamentari restano liberi in Parlamento, siccome non hanno vincolo di mandato di votare a favore o contro, ricordiamolo. Emanuele Massaglio, il presidente dell'ABDA, l'Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni Industriali. Eravamo arrivati, il nostro ospite di oggi pomeriggio ci aiuta a capire qualche cosa dei testi di cui si parla, e eravamo arrivati a chiedergli: ma questo contratto di inserimento a tutela crescente triennale in che rapporto sta con l'apprendistato di cui si parla tanto, ma che poi non è il focus della riforma? Il rapporto è piuttosto scarso, nel senso che si tratta di un altro istituto. Di fatto il governo decide di intervenire su il contratto di lavoro per come è citato dal nostro diritto del lavoro, per cui la forma standard di rapporto di lavoro. Purtroppo l'apprendistato ha pagato e sta pagando quattro interventi negli ultimi tre anni, e qualsiasi intervento normativo, anche il migliore, se ripetuto, se corretto continuamente, comunque determina incertezza. Il risultato di questi interventi è stato il fatto che quello che dovrebbe essere il contratto di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, perché associa all'inserimento lavorativo la formazione e quindi una cosa assolutamente importante per la costruzione dell'occupabilità del giovane, quel tipo di contratto è stato svilito, è stato sfiduciato da questa serie di interventi. Molti mi mandano sms dicendo: ma come, Giannino non è uno di quelli che impugna la bandiera dell'abolizione dell'articolo 18? Ma guardate, io guardo i numeri e gli effetti. Se mi chiedessero, chiunque, l'ho anche scritto con molti articoli in queste settimane, è quello l'effetto da cui immaginare un aumento a breve, nel breve medio periodo, della domanda di lavoro da parte delle imprese, a oggi, se sto a tutte le indagini fatte sulle imprese, la risposta che devo dare è sincera, è no. Non c'entra come la penso io sull'ideologia, e no, perché le imprese dicono: non abbiamo margini, non vediamo domanda interna e quindi siamo frenati agli investimenti. In più c'è il problema di pagamenti ritardati rispetto alle attese della pubblica amministrazione e soprattutto le tasse altissime. Allora, siccome questo viene fuori dalle indagini delle imprese, temo che interventi su questo servirebbero di più dell'articolo 18. Poi non mi sfugge l'importanza politica della battaglia di Renzi nel suo partito, la sinistra, è chiaro, è un grande totem, è un grande feticcio questo articolo 18. Mi dico solo, sommessamente, vorrei sbagliare, ma non mi aspetto che da questo poi chissà che cosa succede. Anche perché se leviamo i contratti a tempo contestualmente, in nome della stabilità, ricordate, cari ascoltatori, che tutti gli interventi in cui la politica ha deciso a tavolino di incentivare i contratti a tempo indeterminato, fatti negli ultimi anni, compreso l'intervento del governo Letta, è stato un fallimento. Il governo Letta ha prodotto 28.000 invece che 100.000 dei contratti a tempo determinato, perché fino a che non c'è domanda, sono a corto di liquidità le imprese e molte tasse da pagare, io penso che questi grandi domande aggiuntive di lavoro non si vedono. Può essere che sbaglio, ovviamente, come è ovvio. Sentiamo rapidissimamente alcuni ascoltatori come la pensano. Cominciamo con Ermanno da Modena. Prego, Ermanno. Buongiorno, solo una cosa, tutto questo scandalo sull'articolo 18, ci stiamo dimenticando che noi abbiamo bisogno che ci sia qualcheduno che assume, e abbiamo bisogno, dato che in Italia ormai le aziende sono messe come sono messe, qualcheduno che venga magari dall'estero per investire. Sì. La gente dall'estero ha paura a venire in Italia, perché non capiscono la nostra legislazione, è troppo difficile, troppo complicato, non la capiamo neanche noi. Dobbiamo, come ha detto, mi sembra anche Renzi, sfoltire le norme e far capire agli investitori stranieri che in Italia con una nuova legge è andato tutto a posto, è diventato un paese normale. Benissimo, quindi lei pone una questione, sentiamo cosa ci dice Emanuele Massagli. Nel testo della delega l'impegno al codice semplificato, molto semplificato del lavoro, c'è ed è preciso e accettabile secondo lei oppure no? No, in vero nell'ultima versione non c'è. Sembrava dovesse esserci, perché Ichino diceva tutte le volte che in realtà la maggioranza seguiva lui e questo è uno dei suoi punti d'anni, invece non c'è, lei dice. No, lo stesso codice semplificato fu ultimamente sposato anche da Sacconi oltre che da Ichino, eppure non sono nel testo, non sono riuscito a inserirlo. Mala cosa, ecco, questo per chi ci ascolta, preferirei anch'io, capite, un codice semplificato. Oltretutto sia Ichino sia Ada, professor Tiraboschi, avevano redatto mi conferma così, sì, Emanuele Messina, avevano lavorato insieme, partendo da punti di vista un po' diversi, un testo unificato che era finalizzato a mettere le mani della politica, perché non c'entrava la destra e la sinistra, eppure, come sentite, l'impegno non c'è. Era redatto, oltre che da gruppo di ricercatori di ADAPT sotto la direzione del professor Tiraboschi e anche del senatore Ichino, da circa 200 tra addetti lavori che volontariamente avevano deciso di aderire al progetto. Quindi insomma da una bella fetta del mondo del diritto del lavoro italiano. Sì, trasversale tra imprenditori, esatto, sindacalisti, ricercatori, e il risultato è perché è un testo consultabile, le elaborazioni, sì, di una settantina di articoli che nell'idea nostra era da innestare nel codice civile per dare certezza, ovviamente contestualmente abrogando tutte le 1500 disposizioni. 1500 disposizioni, stiamo parlando di 70 articoli al posto di migliaia di pagine, perché sul lavoro ogni governo interviene con riformette a margine, che è una formula che usa sempre il professor Tiraboschi e a me convince molto. Sentiamo Giovanni da Taranto come la pensa. Giovanni. Buonasera. Non lo so se è pertinente la domanda o comunque il dubbio, è vicina la cessione, sembrerebbe vicina la cessione dell'Ilva agli indiani, Jindal, ArcelorMittal, che stanno trattando. Chiaramente sarebbe più facile cedere lo stabilimento a investitori stranieri con un management che avrebbe mano libera. Aspetta, per Giovanni, 2-3 mila. No, no, ho capito, però aspetta Giovanni, la tua domanda è pertinente se l'abrogazione del reintegro per licenziamenti economici dovesse valere dal giorno dopo per tutti i lavoratori, non solo per i neoassunti. Che dice Emanuele Massaglia al testo su questo? Vale per quelli che hanno contratto l'inserimento triennale oppure vale per tutti? Partire dai nuovi contratti, ecco, per cui non per chi ce l'ha. E ad ogni modo, per nella fattispecie di cui diceva l'ascoltatore, si interviene col licenziamento collettivo, con un'altra norma ancora, non con quella individuale. Esatto. Qua si sta parlando di fatto di rendere possibile il licenziamento disciplinare. Sostanzialmente il punto è questo: rendere possibile il licenziamento disciplinare. Parliamo di un numero anche abbastanza importante dei licenziamenti, ma evidentemente siamo come numero di persone su cifre molto più basse di quelle interessate dai licenziamenti collettivi. Esatto, cioè nell'ordine delle migliaia, ecco, non nell'ordine di centinaia di migliaia. A mio parere più o meno 17.000 cause di primo grado ogni anno, 70.000 pendenti. Quindi, allora, il tempo è esaurito, vedremo oggi pomeriggio che cosa ci riserva il dibattito nel PD, però torneremo sui testi quando sarà chiaro avere davvero in mano ciò su cui vale la pena o meno dividersi, altrimenti calma, datemi retta, pure io sono liberale liberista, ma calma, perché altrimenti ci si spacca la testa per nulla. Grazie a Emanuele Massaglia, continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.